2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 10 ottobre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile sul nostro sito internet. Come sempre vi consigliamo di abbonarvi al servizio podcast. Online trovate tutte le informazioni su www.radio24.it. Questa settimana la voce ci ha abbandonato un pochettino, quindi cercheremo di recuperare per la prossima settimana, ma passiamo subito alle notizie. Questa settimana la più importante forse riguarda la AT&T, che ha deciso di aprire la propria rete 3G, quindi UMTS, all'applicazione Skype per iPhone. Questa è una cosa che riguarda per il momento solo gli Stati Uniti, ma è una notizia importante. Da questo momento tutti gli utenti Skype potranno telefonare via internet anche in mobilità, ma soprattutto la cosa importante perché è un segnale chiaro di quanto forte è la pressione degli utenti per usare applicazioni VoIP, e Skype è solo una di queste. Una rivoluzione, potremmo definirla così, inarrestabile, che prima o poi travolgerà i gestori di telefonia mobile o fissa, anche se le resistenze sono molto forti, come dimostra la decisione di Vodafone di limitare invece il VoIP per alcuni profili. E questa notizia invece riguarda l'Italia. Da tempo diciamo che la condizione ideale, sia che si parli di banda larga mobile sia che si parli di un collegamento fisso, sarebbe quella di avere il solo collegamento ad internet, punto e basta, e quindi pagare per quello. La linea telefonica potrebbe essere un servizio che potrebbe poi essere erogata come voi in tecnologia voice over IP a costo zero, quindi magari pagando le telefonate se si fanno telefonate sulla rete generale di telefonia, ma senza pagare abbonamento. Fra 12 giorni uscirà sul mercato il nuovo e atteso sistema operativo della Microsoft, parliamo di Windows 7, alcuni lo stanno già utilizzando e soprattutto negli Stati Uniti i giudizi sono molto positivi. È bene però essere prudenti prima di giudicare, visto quello che è già successo con Vista, che era arrivato come una rivoluzione, invece si è poi rivelato un vero fallimento. Parleremo comunque anche del nuovo sistema operativo a 2024 nelle prossime puntate. Con noi ci saranno molti esperti, anche Steve Ballmer, l'amministratore delegato di Microsoft. Questa settimana è invece uscito Windows Mobile, di questo parleremo più tardi con un nostro ospite. Un'altra notizia che è arrivata in settimana e di cui parleremo tra un paio di puntate riguarda il mercato degli ebook reader. Amazon ha deciso di vendere il famoso Kindle in oltre 100 paesi, tra cui l'Italia, a partire dal prossimo 19 di ottobre. Finora il prodotto era distribuito solo negli Stati Uniti. Nella scorsa puntata avevamo annunciato che ora la registrazione dei domini.it è completamente elettronica. Allora, la novità ha dato una scossa al mercato. Dal 28 settembre sono stati attivati quasi 2000 nuovi domini.it al giorno, contro una media di 1156 rilevata nel corso dei primi mesi del 2009. Alcuni di voi ricorderanno GeoCities, questa è un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti. GeoCities era uno dei primi servizi ad offrire uno spazio gratuito per realizzare siti internet. Bene, come già annunciato in primavera, Yahoo spegnerà il servizio il 26 ottobre dopo 15 anni di attività. Una notizia interessante per l'evoluzione dei servizi di geolocalizzazione, in generale per tutto ciò che riguarda le mappe e i servizi collegati alle mappe. Digital Globe, una società specializzata in questi servizi, ha lanciato due giorni fa il terzo satellite di proprietà per fotografare la superficie terrestre con una qualità incredibile finora. Il satellite si chiama WorldView 2 e la dice lunga sul business che gira attorno a questi servizi, se pensiamo che Digital Globe non è l'unica società che ha lanciato satelliti di proprietà per fotografare la superficie del pianeta. Parliamo di sicurezza informatica. Quella dell'invasione di messaggi spam resta, secondo la Commissione europea, un problema grave che colpisce il 65% degli utenti internet europei, nonostante i divieti e le multe in vigore in tutta Europa. La Commissione europea torna a sottolineare quindi l'esigenza e l'urgenza del varo di nuovi strumenti per combattere il fenomeno anche con azioni penali. Finora le multe più salate sono state inflitte in Olanda 1 milione di euro, in Italia 570.000 euro e in Spagna 30.000 euro. Tra poco parleremo di banda larga, dell'evoluzione della banda larga, ora però continuiamo a parlare di sicurezza informatica, un settore sempre in fermento, anche se oggi se ne parla poco, oppure se ne parla quando le aziende del settore lanciano allarmi, il più delle volte purtroppo esagerati. Ne parliamo con Stefano Zanero, ricercatore del Politecnico di Milano e fondatore di Secure Network. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Tu ti occupi di sicurezza informatica, potremmo dire così, si dice ancora sicurezza informatica, perché voi dite security. Ma si dice sicurezza, in realtà si parla più propriamente di sicurezza delle informazioni, perché non è soltanto la sicurezza delle informazioni che vengono trasmesse tramite i computer o tramite le reti, che è la sicurezza informatica propriamente detta, ma è la sicurezza delle informazioni che noi gestiamo nella vita di ogni giorno, quindi anche cartacee oppure personali. Per uno che non è esperto della materia, dire mi occupo della sicurezza delle informazioni significa fare che cosa? O meglio, che cosa potrebbe succedere se non ci fossero quelli che si occupano della security? Allora, sicurezza delle informazioni significa partire innanzitutto dalle informazioni e dal loro valore, quindi percepire il fatto che certe informazioni personali, non solo il numero della carta di credito che è l'esempio classico, ma tante informazioni che noi utilizziamo hanno un valore per noi e per qualcuno che vuole utilizzarle o abusarne. Per esempio, I tracciati dei miei viaggi hanno un valore per le aziende di assicurazioni che mi devono assicurare, piuttosto che per le compagnie aeree che vogliono vendermi i biglietti. I miei dati personali anagrafici hanno un valore per chi vuole impersonarmi, quindi fingersi me, comprare una casa, comprare un'auto e intestarmi un debito, come può succedere per esempio nel caso di furto d'identità. Di queste cose la gente comune non percepisce il valore. Gli esperti di sicurezza delle informazioni si occupano di capire questo valore e di trovare le misure adeguate per proteggere queste informazioni. Senti, a proposito di notizie, questa settimana abbiamo anche al nostro giornale radio abbiamo raccontato agli ascoltatori che c'è stato un attacco informatico, così si dice, ad alcuni account di posta elettronica, di Gmail, di Hotmail, comunque servizi di posta elettronica piuttosto noti e famosi. Nella realtà, visto che, come dicevo, a volte vengono lanciati allarmi un po' esagerati, nella realtà che cosa è successo? Nella realtà quello che è successo è che non sono stati aggrediti questi servizi di posta, ma sono stati aggrediti i loro utenti. Nel senso che sono stati vittime di un attacco di phishing. Per i tuoi ascoltatori che magari non sanno che cos'è il phishing, phishing significa cercare di ingannare una persona per farmi dare delle informazioni che questa persona non mi dovrebbe dare. Tipicamente o dei codici finanziari di accesso a carte di credito o conti correnti, oppure delle password per accedere a dei servizi. In questo caso le persone sono state ingannate e hanno fornito codici di accesso dei loro servizi di posta. Quindi diciamo che Gmail e gli altri, Hotmail eccetera eccetera, che adesso si chiama poi Live, Windows Live, non sono stati attaccati, quindi questi sistemi sono robusti o comunque hanno dimostrato di essere robusti fino ad oggi, ma sono stati gli utenti che hanno in qualche modo hanno fornito i propri account di accesso. Esatto, inconsapevolmente. Senti, tu hai fatto riferimento al phishing, è una cosa di cui parliamo da parecchi anni, c'è ancora gente che ci casca? Cioè, il phishing spesso funziona in questo modo: io ricevo un'email che sembra magari l'email della mia banca e appare un messaggio che dice guarda, per motivi di sicurezza dovresti rimettere la tua password, la tua identità all'interno di un sito che a volte, anzi che spesso è simile a quello della nostra banca ma è un falso sito. Ma così tante persone ci cadono ancora? Guarda, ti cito un caso recentissimo di una banca che ha fornito ai suoi utenti una scratch card, una di quelle tesserine dove si cancella e si ottiene un numero, no? Come i Gratta e Vinci, per le password operative dei conti correnti, con una cinquantina di questi codici. E proprio per evitare il fenomeno del phishing, perché avevano questo problema di molti attacchi di phishing. E un phisher, un po' più intraprendente degli altri, ha creato la pagina di phishing dicendo: caro utente, per attivare la scratch card che hai appena ottenuto, dovresti inserire qui tutti e 50 i codici della tua scratch card. E ci sono alcune centinaia di utenti che l'hanno fatto, che sono pochi su magari decine di migliaia o centinaia di migliaia, però sono sufficienti per rendere questo attacco redditizio, a costo zero e ad alto rendimento. Quindi anche in questo caso potremmo dire il problema non era un problema di sicurezza intrinseca nei sistemi, ma un problema di affidabilità degli utenti che sono caduti in una attacco di, come dite voi, di phishing. Esatto, che è il problema di sicurezza principale di qualsiasi organizzazione. Senti, che consiglio possiamo dare però alle persone? Cioè, come si fa ad accorgersi che l'email che ci arriva è un'email falsa? Beh, intanto si può dire che nella grande maggioranza dei casi un'email che ci arriva chiedendoci le credenziali è un'email falsa. Cioè, io posso partire dalla presunzione che quell'email sia falsa. Okay. Perché nessuno dei nostri fornitori ci chiederà mai le password. Se proprio uno ha il dubbio che sia vera perché è particolarmente convincente, chiamare il supporto tecnico della banca al telefono o inviare un messaggio, però partendo dal sito ufficiale, mai partendo dai link o dagli indirizzi che sono inseriti nel messaggio, perché il messaggio è fatto in modo da farmi cadere nella trappola. Senti, se guardassimo al sistema informatico in generale, quindi internet, tutto il sistema mondiale, possiamo dire oggi che siamo di fronte a un sistema che è fondamentalmente sicuro o ci sono dei problemi seri? Allora, siamo di fronte a un sistema che è l'insieme, l'interconnessione di tanti sistemi. Molti di questi sistemi, quelli principali, quelli più utilizzati, quelli più famosi, sono ben mantenuti e sicuri. Molti di questi sistemi, in particolare i sistemi degli end user, degli utenti finali a casa, sono meno mantenuti, perché il mio PC di casa nel senso quello di Stefano sì, Zanero tuo, è magari ben controllato, però il PC di casa di molte persone è molto meno controllato e sorvegliato del proprio PC aziendale, che invece è un reparto IT che se ne occupa, no? Questi PC vengono quotidianamente compromessi e costituiscono delle enormi schiere di macchine infettate, che vengono chiamate botnet in gergo tecnico, tramite cui vengono effettuati tutta una serie di attacchi. Dal phishing e dallo spamming che noi riceviamo tutti i giorni viene in gran parte da macchine di altri utenti ignari che vengono utilizzati come teste di ponte. E il fatto che queste macchine vengano compromesse significa che poi gli account di posta, di home banking utilizzati su quelle macchine sono a loro volta compromessi. Quindi il problema non risiede tanto nei grandi sistemi e nella sicurezza dei grandi sistemi. Quindi quando tu mi chiedi... È nella somma dei piccoli. Quando tu mi chiedi l'e-commerce è sicuro? Certo, ci sono tutte le soluzioni da decine di anni. Poi ci sarà ancora qualche sito di e-commerce che non è sicuro. Però la grande maggioranza sì. Sono i nostri sistemi a casa che diventano insicuri. Senti, è vero, lo chiedo a te che tutti i giorni ti occupi di questi temi, che esiste un business, chiamiamolo sommerso, che sfrutta le vulnerabilità, le debolezze dei sistemi che comunque continuano ad esistere, ma soprattutto, come dicevamo, le vulnerabilità e le debolezze delle persone che a volte rispondono a delle domande quando invece non dovrebbero rispondere, o comunque forniscono i codici di accesso ai propri siti internet quando non dovrebbero farlo. Non solo esiste, ma è molto fiorente. Esiste una vera e propria underground economy, come viene chiamata, cioè un'economia del sommerso digitale, in cui c'è un mercato nero in cui io vendo e compro computer compromessi, perché poi mi servono per realizzare un attacco, per cui magari sono stato pagato da terzi. Compro e vendo computer compromessi per fare phishing, ottengo gli account delle persone, gli account bancari delle persone, login e password, e poi non li uso io, ma li rivendo un tanto al chilo a un altro che invece si occupa dell'effettiva estrazione dei soldi, che acquista un servizio di lavanderia economica tramite altre persone ancora che fanno le varie truffe, quelle nigeriane, ti trasferisco $1,000,000, poi sì, tu te ne tieni 100,000 e mi mandi gli altri 900,000 a questa cassetta postale. Quella roba lì, quando si trova il pollo giusto da spennare, serve a fare il risciacquo di capitali che sono stati trasferiti dal phishing, cioè trasformarli in soldi contanti che non possono più essere tracciati. Sì. Tra poco parleremo di banda larga, parleremo anche di Windows Mobile. Adesso stiamo parlando di sicurezza informatica con Stefano Zanero, che è ricercatore al Politecnico di Milano e anche fondatore di Secure Network, insomma si occupa di sicurezza informatica. Dicevamo, Stefano, che esiste un mercato, un sottobosco molto ricco di persone che grazie alla loro abilità e anche grazie alle debolezze del sistema, alle debolezze delle persone che a volte appunto forniscono le proprie credenziali, che siano le password per accedere alla banca o qualcos'altro, fanno soldi o comunque fanno parte di questa economia sommersa. Ma questo accade nei paesi dell'est, si dice, in Russia, in Cina, o riguarda anche il nostro paese? Molte di queste organizzazioni hanno base in stati che hanno, diciamo, un controllo di polizia meno forte. C'è da dire che non è che l'Italia sia tra gli stati che hanno un controllo di polizia forte. Quindi potremmo diventare, per ora non siamo apparentemente la base di queste organizzazioni, ma lo potremmo diventare. Del resto in tema di criminalità organizzata non abbiamo lezioni da prendere da nessuno, no? Quindi potremmo diventarlo. Senti, tornando al tuo computer di casa, il tuo sicuramente è equipaggiato con tutte le cose che servono per mantenerlo sicuro, ma che cosa deve avere un computer di una persona che ci sta ascoltando per essere, cioè il famoso antivirus basta? Il famoso antivirus basta intanto se è un famoso antivirus aggiornato, ma al giorno d'oggi anche l'antivirus aggiornato non basta più. Assieme all'antivirus aggiornato serve un computer aggiornato, quindi con tutte le patch di sicurezza appropriatamente applicate, e serve ricordare che molto del malware, cioè delle cose cattive che vengono scaricate sui nostri PC, arriva da siti più o meno poco raccomandabili. Quindi quando si naviga, fare molta attenzione anche a che cosa c'è installato sul proprio browser per proteggersi dai siti non affidabili. Ci sono alcune barre date dai vari motori di ricerca, ad esempio, che hanno dei database di siti che è meglio non visitare. E ci sono siti che magari distribuiscono contenuti poco leciti o, diciamo, borderline, che è meglio evitare di visitare, quantomeno evitare di visitarli dal computer che poi si utilizza per andare a fare un banking. Questa potrebbe essere una cosa. Quindi se volessimo fare un paragone con la circolazione stradale, sicuramente sono utili gli airbag, l'ABS, eccetera, eccetera, però bisogna anche mantenere una velocità non elevata. Assolutamente. Comunque dare tutte le precedenze. Bisogna sempre essere in grado di utilizzare, diciamo, l'accessorio antivirus e di sicurezza informatica più importante, che è un po' di buon senso, esattamente come non inserire i propri codici di accesso solo perché me li ha chiesti una mail, anche non scaricare e installare qualcosa solo perché si è aperto una finestrella che mi dice attento, hai un virus, scarica qui il rimedio. Magari quel rimedio è il virus e io lo sto inconsapevolmente scaricando. Senti, qual è a tuo parere il livello di consapevolezza delle persone che utilizzano i computer e internet in Italia? Si dice spesso che l'alfabetizzazione in Italia è molto scarsa. Ma io direi che sicuramente l'Italia ha dei problemi sistemici rispetto all'alfabetizzazione informatica, però in realtà nel caso della sicurezza specificamente non è molto diversa dalla situazione in giro per il mondo, perché comunque sono temi talmente difficili per la persona che non si occupa specialisticamente di questo, che un po' di smarrimento è anche comprensibile, insomma. È certo che in Italia abbiamo un'alfabetizzazione informatica base più bassa, quindi un più alto numero di utenti che davanti al computer sono, come dire, indifesi, no? Qualsiasi cosa gli raccontino probabilmente ci credono, non hanno il mezzo critico per capire se è vera o no, e questo dal punto di vista del truffatore informatico è sicuramente una pacchia. Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te, ciao. Vi ricordo che Stefano Zanero assieme a Secure Network organizza Secure IT, che è un appuntamento dedicato al mondo della sicurezza informatica per esperti durante SMAO. Vi ricordo SMAO a Milano dal 21 al 23 di ottobre, un appuntamento che seguiremo anche con interviste e approfondimenti a 2024 e su Radio 24. Parliamo della banda larga, questo è un tema molto importante per lo sviluppo del paese, non è solamente importante perché i cittadini hanno oramai, lo si dice in quasi tutta Europa, diritto ad accedere alle informazioni e quindi diritto ad accedere alla rete e scambiarsi le informazioni attraverso la rete, ma è anche importante per lo sviluppo economico del paese. Ci sono parecchi studi che dimostrano e mettono in relazione la diffusione della banda larga e dei servizi che vengono sviluppati su internet internet con lo sviluppo economico del paese, con il prodotto interno lordo. Questo lo si dice quasi ad ogni conferenza dedicata al tema. Ne vogliamo parlare con Cristoforo Morandini, partner di Between, una società di consulenza che si occupa di telecomunicazioni e da 8 anni si occupa anche del monitoraggio della banda larga in Italia. Ci sono nuovi dati e noi vogliamo partire proprio da qua. Morandini, benvenuto a 2024. Sì, buongiorno a tutti voi. Quando parliamo di diffusione c'è sempre un problema tra la diffusione in senso stretto fisica della banda larga e poi la cosiddetta penetrazione, cioè quanti poi in realtà si sono abbonati o comunque sono collegati ad un servizio di questo, in questo genere. Gli ultimi numeri che cosa ci dicono? Sì, i due temi sono effettivamente quelli più importanti su cui si sta concentrando il dibattito in tutta Europa. Tanto bisogna ricordarsi come questo tema sia considerato oramai in tutti i grandi paesi europei come una delle leve per lo sviluppo, quindi per ricominciare a crescere. Tutti i grandi piani europei pongono al centro dell'attenzione questo tema dell'economia digitale. Dietro l'economia digitale, quindi di tutti i contenuti digitali, ci sono queste nuove reti a banda larga, banda molto larghissima. Quindi per quanto riguarda la situazione di partenza, di fatto oggi abbiamo una copertura dei servizi di connettività a banda larga che è circa del 92%, quindi il 92% degli italiani, se vogliono, possono collegarsi con un servizio a banda larga. Poi quanti sono quelli che effettivamente usano questa possibilità? Quindi che hanno sia i mezzi per comprare un abbonamento che la capacità tecnica di usare un computer. Sono oggi di fatto 12 milioni i collegamenti, l'80% di questi collegamenti sono collegamenti da casa. Allora, a che punto siamo? Siamo a metà strada se pensiamo che in Italia ci sono circa 24-25 milioni di famiglie, quindi siamo a metà strada. Quindi grosso modo potremmo dire che metà degli italiani si sono collegati, alcuni forse non si collegano perché fisicamente non hanno la possibilità, altri perché non sono interessati o hanno altri problemi. Quando voi parlate di banda larga mettete assieme sia la DSL o quel po' di fibra che c'è in Italia e anche la telefonia mobile, l'UMTS, tutte le varie tecnologie che poi si sono sommate l'UMTS oppure no? Questo è un ulteriore tema di attualità. Fino a ieri si parlava di banda larga fondamentalmente solamente per la telecomunicazione di rete fissa. Oggi le prestazioni che vengono offerte dalle reti mobili consentono di parlare di banda larga anche con il mobile, si parla appunto di mobile broadband. Anche se, attenzione, le prestazioni non sono ancora totalmente confrontabili, i prezzi non sono direttamente confrontabili. Però sono due tecnologie complementari che aiuteranno ulteriormente la diffusione. Anche perché in Italia noi abbiamo comunque ancora un tasso di alfabetizzazione all'uso dei personal computer che è troppo basso rispetto all'Europa, siamo uno dei paesi più arretrati in Europa. Quindi dobbiamo trovare tutti i modi possibili e immaginabili per aumentare la diffusione e nel frattempo anche cominciare a lavorare sull'acculturamento informatico degli italiani. Senta, un altro tema di cui si parla molto, molto, soprattutto in Italia, è il confronto, questo non vale naturalmente solo per la banda larga, lo si fa un po' per tanti temi, il confronto con gli altri paesi. Ecco, se ci confrontiamo con almeno i più vicini a noi in Europa, come stanno le cose? Sì, nonostante la crescita che c'è stata in questi ultimi anni, pensate che nel 2001 c'erano meno di 1 milione di collegamenti, erano 300.000 collegamenti a banda larga nel 2001, oggi siamo a 12 milioni, quindi la crescita è stata molto veloce, ma ciò nonostante è stata più lenta rispetto ad altri paesi e la diffusione della banda larga in Italia è ancora relativamente contenuta rispetto a quanto accade in altri paesi. Per darvi un'idea, in Francia ci sono più di 16 milioni di collegamenti, nei paesi del nord Europa oramai chi ha un computer sostanzialmente alla banda larga, ma soprattutto la maggior parte della popolazione ha un computer in casa collegato a banda larga. Quindi siamo ancora nelle posizioni di retroguardia e serve sicuramente un impulso, un progetto per recuperare posizioni. Il problema appunto è che questo progetto al momento manca. ...2024 Seguiteci il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online. Il nostro servizio podcast vi aspetta per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Trovate online su www.radio24.it tutte le informazioni, oppure inviateci una email. Io sono Enrico Pagliarini, questa settimana con una voce non consona al solito nostro standard, me ne scuso, recupereremo la prossima settimana. Stiamo parlando di banda larga, un tema molto importante, tra poco parleremo anche di Windows Mobile che è uscito da poco, anche se Microsoft fatica in questo segmento, quello della mobilità, a fare grandi passi in avanti. È con noi Cristoforo Morandini, che è partner di Between, che ha da poco annunciato nuovi e aggiornati dati sulla diffusione della banda larga in Italia. Stavamo dicendo poco fa, Morandini, che non esiste un progetto nazionale, o comunque al momento gli investimenti sono molto limitati o sono limitati a livello regionale. Ci conferma che tutto ciò ancora non è cambiato, Morandini? Il tema è che ci manca una grande ambizione, probabilmente. Noi abbiamo, tutti i grandi paesi hanno annunciato dei piani che hanno una capillarità più o meno ampia. Noi abbiamo un piano relativamente contenuto, un piano pubblico relativamente contenuto, che tende ad occuparsi del passato, quindi dei collegamenti a banda larga di prima e seconda generazione, mentre gli altri paesi si stanno concentrando sulla terza e quarta generazione. Come diceva lei, effettivamente poi ci sono dei territori, delle regioni un po' più virtuose che cercano di fare qualche cosa, ma non è moltiplicando gli sforzi che probabilmente arriveremo al risultato. Dobbiamo avere un'ambizione a livello di paese e poi dei progetti a livello locale. Morandini, io la ringrazio per essere stato con noi, anche del suo lavoro. Sicuramente, insomma, ci saranno anche altre occasioni per risentirci. A presto e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. C'è un altro tema molto importante, molto interessante, sul quale sta tra l'altro lavorando anche Between e lo stesso Morandini che abbiamo sentito poco fa, cioè quello della qualità della banda larga. Saluto Alessandro Longo, che alcuni ascoltatori conoscono, che da tempo segue questo mercato. Alessandro, bentornato a 2024. Grazie, saluto tutti. Uno dei problemi di cui si sta parlando negli ultimi tempi è, oltre alla diffusione che sappiamo molto lenta nel nostro paese, anche alla misurazione della banda larga. C'è chi dice che laddove esiste la banda larga non sempre questo è un servizio che soddisfa gli standard internazionali. Allora, qual è il problema, Alessandro? È una completa incognita. Io prima di comprare una ADSL o un altro servizio banda larga non posso sapere a priori quanto e come mi andrà, ecco, se non facendo un po' di ricerche con gli amici, ecco. Ma è una cosa del tutto inaffidabile. E una volta che ho comprato la DSL, mi sembra che vada lenta o non propriamente veloce, posso fare dei test, delle misurazioni che però non hanno un valore oggettivo e scientificamente affidabile al 100%. Quindi c'è una totale alea e difficoltà dell'utente a capire la qualità della propria DSL, quella reale sulla carta. Le nostre DSL sono veloci perché hanno velocità di picco, cioè massime, di 7 megabit o 20 megabit al secondo, che ci porrebbe ai massimi livelli in Europa per la DSL, però appunto è solo la velocità massima. E questo problema come lo si sta affrontando, se lo si sta affrontando? Lo si sta affrontando in vari modi. Da una parte c'è chi sta facendo pubblicità a strumenti, a test che permettono di analizzare la propria connessione banda larga. Ecco, l'ultimo di cui si parla in queste ore è Exposure, che è un software di una società inglese, adesso è promosso da Between, osservatorio banda larga. Però ancora, come dicevo prima, il problema è che questi software sono comunque non sono totalmente oggettivi, ci sono moltissimi problemi. Ecco, io per esempio faccio un esempio, questi software analizzano la velocità che ha la mia connessione rispetto a un server che serve appunto per fare il test, però i colli di bottiglia che non dipendono dalla mia connessione sulla strada possono essere numerosi, ci può essere anche un rallentamento di quel server in quel momento. Per esempio, ecco, quindi non, se ho un risultato basso non è detto che che sia colpa, insomma, del mio provider. Questo è un modo. L'autorità, la nostra autorità garante delle comunicazioni, si è resa conto che è un problema di trasparenza delle offerte e quindi ha commissionato, come tu hai detto pure Enrico in una precedente puntata, ha commissionato alla FUB, alla Federazione, alla Fondazione Ugo Bordoni, di creare un test, un software che però dia risultati certificati ufficiali, e lo farà entro ottobre del 2010. Questo software darà poi risultati che l'utente potrà utilizzare per rivalersi con gli operatori, quindi se questi risultati non sono più bassi molto delle promesse, può per esempio chiedere la disdetta senza costi o un rimborso. La cosa interessante, Enrico, è che anche le promesse diventeranno più dettagliate. Cioè, adesso cosa si legge nelle offerte solitamente? La banda massima, eccetto quei piccoli provider che poi ti danno anche una banda minima garantita, vero? Ora, Agicom ha chiesto agli operatori di fornire nell'offerta anche altri dati, per esempio la banda media nel 95% dei casi o la banda minima. Certo, non sarà facile per gli operatori che sono abituati da anni a non fornire questi dati, poi adeguarsi, ma saremo a vedere. Alessandro, quindi mi sembra di capire che c'è un problema di standard anche per la misurazione. Il megabit, quindi i megabits, non sono uno standard accettabile o sufficiente? I megabit sono uno standard di velocità che però adesso vengono utilizzati per indicare la velocità massima, quindi non c'è uno standard sulle prestazioni reali della connessione. La velocità massima che potrebbe anche non essere mai raggiunta, no? è un dato teorico, come dire che quella macchina può raggiungere anche un 2000 km all'ora, però insomma poi alla fine va a 50, no? È chiaro che all'utente interessa capire realmente quanto va, ecco, di solito, e quindi mancano degli standard, non a livello teorico ma a livello pratico, possiamo dire. Non c'è solo la velocità, c'è anche per esempio la latenza, i tempi di risposta della connessione, che è importantissimo per chi telefona via internet, fa VoIP o gioca su internet, fa i vari giochi online. Sì, mi verrebbe da dire, basterebbe che aumentassero i provider, i fornitori di connettività onesti, che dichiarassero la verità invece di dichiarare le velocità di picco. Ce ne sono in Italia? In Italia ci sono, come dicevo, dei piccoli provider, se vuoi li cito, sono NGI, ONG che dir si voglia, MC Link e tanti altri che dichiarano una banda minima garantita, perché loro, insomma, nei loro sistemi hanno visto che la velocità, possono garantire una velocità, che la velocità non andrà mai sotto una certa soglia, che comunque è solitamente di 128, 256 kilobit al secondo, quindi insomma comunque non è una velocità, è una velocità che è una frazione di quella di picco, ecco. Per quanto riguarda invece gli altri paesi, Ofcom, che è l'Authority TLC inglese, ha fatto uno studio recente sulle connessioni banda larga inglese, ovviamente, e lì il risultato è che la velocità media è la metà di quella di picco, quindi insomma se persino in Inghilterra la situazione è questa, sarà interessante vedere in Italia quale sarà. In Inghilterra considera che le velocità di picco sono un po' più moderate, cioè le promesse sono un po' più moderate degli operatori. In Italia che c'è questa moda dei 20 megabit, che poi in realtà chissà quanto è. Sì, quindi non le sparano così grosse, diciamo così. Ecco, diciamo sì. Bene, Alessandro, io ti ringrazio, la cosa è sicuramente molto interessante. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, saluto tutti. 2024. In questa puntata di 2024, come vi ho annunciato all'inizio, ci occupiamo anche di sistemi operativi e di telefonia mobile. Come spesso diciamo, il sistema operativo sta diventando sempre più importante sui telefonini. C'è una fascia crescente che si sta allargando sempre di più di telefoni che oramai non si chiamano più telefoni, molti li chiamano smartphone oppure piccoli computer portatili, che hanno necessità di un sistema operativo, e questo sta diventando sempre più importante. Naturalmente, quando parliamo di sistemi operativi, una parte molto importante del mercato la fa Microsoft. Saluto Fabio Falzea, che è responsabile della divisione Windows Mobile di Microsoft in Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi continuate, potremmo dire così, ad insistere verso questo mercato. Per quale motivo? Molti dicono che questo è il mercato del futuro, stiamo vedendo la crescita di nuove piattaforme, voi continuate, ho usato questa parola non a caso, ad insistere in questo mercato con un vostro sistema operativo, non con un telefono, ma poi di questo ne parliamo. Certo, per noi è veramente molto importante, non solo per l'opportunità commerciale che è oggettivamente enorme, al mondo ci sono molti più telefoni rispetto agli personal computer, ma anche per portare i dati delle persone anche in mobilità. Quindi alla fine la persona che usa il personal computer è la stessa che guarda la televisione, è la stessa che usa questo telefono. E quindi io devo avere la possibilità di integrare queste informazioni, accedere alla mia posta, i miei contatti, le mie informazioni, indipendentemente dallo schermo che sto usando, che può essere un telefono, può essere il PC, ma perché no anche la televisione. Voi avete lanciato da qualche giorno Windows Mobile 6.5, che arriva poco prima dell'uscita di una nuova release di un sistema operativo, quello diciamo il fratello maggiore, potremmo chiamarlo così, per i PC. Esiste un collegamento con il mondo dei PC, quindi il Windows Mobile in qualche modo è collegato con il Windows dei computer, e perché stiamo aspettando la versione numero 7 di Windows per i PC e qua siamo alla versione 6.5? Allora, sui nomi potremmo ragionarci a lungo, in effetti anch'io avrei preferito allinearli, ma sono due linee di processo che vanno in due direzioni diverse, che a un certo punto convergeranno anche coi nomi, ma per ora li teniamo separati. Ovviamente Windows Mobile è fatto proprio per parlare con i dati del personal computer, perché sono i dati della persona. Quando io perdo il mio hard disk, perdo il mio telefono, io non sono dispiaciuto soltanto per il valore commerciale dell'oggetto, io sono preoccupato per i miei dati, per quello che c'è dentro. Ad esempio in Windows Mobile 6.5 noi abbiamo introdotto un servizio gratuito che si chiama MyPhone, che mi copia tutto quello che ho sul telefono su un'area in internet, che quindi mi fa un backup, ma anche mi consente poi di gestire, non so, tutti i miei SMS, non li perderò mai più, perché li avrò lì ben conservati, me li posso gestire, portare in cartelle, conservare per sempre. Sai che abbiamo scoperto che alcune persone non buttano il telefono vecchio, perché all'interno ci sono SMS o foto a cui sono particolarmente affezionati e non sanno come tirarli fuori. E allora si tengono lì l'oggetto magari di 5-6 anni fa. Sì, sì, è vero, ci sono persone che a volte ti chiedono come faccio a spostare questa fotografia. Esatto. Voi in questi ultimi anni avete fatto alcuni piccoli passi in avanti, come dicevo poco fa, ci sono altre piattaforme che stanno crescendo, di cui si parla molto. Che cosa manca ancora secondo voi a Windows per fare un salto di qualità, soprattutto in alcune direzioni, ad esempio quella del touch, che va molto di moda, in alcuni casi è soprattutto una moda, in altri casi insomma è anche una necessità per alcuni utenti? Certo, ma hai detto bene all'inizio, si tratta molto di moda e la Microsoft, tutti sono convinti che i successi della Microsoft siano immediati. In realtà chi è in questo settore da anni lo sa che se oggi parli con un universitario lo spreadsheet è chiaramente Excel, ma se torni indietro nel tempo, anni fa lo spreadsheet era l'8x23, ancora prima VisiCalc, cioè ci vuole tempo perché le tecnologie si affermino. E ci sono dei trend, ad esempio il touch piace molto a certe persone. Io ti confesso, personalmente non riesco proprio a usarlo. Quando io uso un touch, cado dalle scale, ne combino di ogni. Io ho bisogno della tastiera fisica. E come me ha tante altre persone. Quindi noi cerchiamo, invece di avere un'esperienza su una sola piattaforma, quindi su un solo telefono, proprio come nei PC, noi cerchiamo di dare la stessa esperienza sia che tu usi un HP, un Dell, un qualsiasi tipo di PC. Nei telefoni stessa cosa. Cioè tu puoi scegliere un modello Samsung, HTC, LG, Acer, che è il nuovo arrivato in questo settore, ma tu sai che hai la stessa esperienza, hai Word, Excel, PowerPoint, hai l'accesso ai tuoi dati, quindi le cose che per te sono veramente importanti. Quindi voi non avete fatto, ma non farete un vostro telefono? No. No, non è nel nostro obiettivo, come peraltro devo dirti non abbiamo mai fatto un personal computer nella storia. Ci sono dei modelli di business, ad esempio le console per videogiochi, che richiedono che tu faccia anche l'hardware, ma non è un modello che a noi, come dire, ci trova congeniale. Noi riteniamo di essere una buona azienda che fa del software vogliamo fare, e soprattutto noi vogliamo fare in modo che i dati, le esperienze delle persone possano essere facilmente fruibili, e quindi il mio telefono smette quasi di essere un telefono, diventa un comunicatore mobile, un oggetto che mi tiene in contatto con tutto il resto del mio mondo. Negli Stati Uniti, per il momento non ancora in Italia, o comunque in Europa, esiste un piccolo lettore MP3 che si chiama Zune, di cui si è parlato molto perché è arrivata la nuova versione. Su quel prodotto c'è un software touchscreen che, almeno dai video che io ho visto girati negli Stati Uniti, sembra molto fluido, una di quelle cose che si criticano spesso sui sistemi operativi che supportano il touchscreen, che magari non funzionano tanto bene. Esiste un collegamento tra lo Zune, o comunque il software dello Zune, e il nuovo Windows Mobile? Certo, la base tecnologica è sempre la stessa, solo che in quel caso lì siamo riusciti a ottimizzarlo particolarmente per quella piattaforma specifica. Quando tu controlli hardware e software riesci a fare questi lavori di integrazione molto forte. Però vedrai che anche alcuni prodotti che usciranno in commercio con la 6.5, pensa ad alcuni prodotti di Samsung, di HTC, di Acer, hanno processori da 1 GHz e quindi una potenza di elaborazione che fa delle cose nella fluidità veramente incredibili. Tu hai citato Samsung e HTC in modo particolare, sono i vostri due partner più forti sul mercato italiano. Tra l'altro Samsung sta crescendo molto molto forte, in maniera molto forte in Italia, ma un po' in tutta Europa e forse direi in tutto il mondo. Ma guarda, il mercato italiano per Windows Mobile è un mercato ottimo. Noi abbiamo partner storici come HTC, partner che negli ultimi 2 anni si sono affermati molto rapidamente, come ad esempio Samsung, che ha lanciato dei prodotti che hanno avuto grandissimo successo. Pensa all'Omnia, pensa all'I600 e adesso l'Omnia 2 che arriverà tra poco. Ci sono partner nuovi, LG si sta affacciando a questo mercato con ottime macchine, Acer sta proprio entrando nel mercato degli smartphone con Windows Mobile presentando dei prodotti molto buoni, e poi non dimentichiamo anche partner come dire storici ma che hanno una grandissima tradizione, tipo Sony, che presenta l'X2, successore appunto all'X1, che è stato un telefono che in Italia ha avuto tantissimo successo. Senti, prezzi dei telefoni, quando si fa riferimento allo smartphone, in alcuni casi si fa riferimento ad un telefono che costa molti soldi o bisogna legarsi ad un operatore per avere quel telefono ad un prezzo più concorrenziale. Per quanto vi riguarda, qual è la soglia di ingresso per un telefono che comunque è definito smartphone perché ha un sistema operativo sul certo. Quale possono essere installati i programmi eccetera eccetera? Hai toccato un punto che è un punto non tecnologico ma sul quale io perdo tantissimo tempo, spendo tantissima attenzione, perché vendere un telefono da 600-700 euro in Italia non è così difficile, devo dirti. Quando tu lanci un buon telefono, 20-30 mila pezzi li vendi comunque. E quindi c'è tutta una fascia che riguarda circa 2-3 milioni di telefoni all'anno che vanno su prezzi molto alti e che vendono comunque bene, perché ci sono persone o disposte a spendere o che riconoscono un valore proprio di lavoro, no? Sono macchine che producono molto e quindi io spendo. Per cambiare veramente questo modello però bisogna scendere un po' più basso quei prezzi. E come ricordavi bene, in Italia non abbiamo questo modello dove io compro un contratto con l'operatore e ottengo il telefono. Io compro il telefono e poi una prepagata. Sì, diciamo che la versione che tu hai citato, cioè non compro il telefono ma mi lego ad un operatore e ho il telefono quasi per nulla o addirittura per nulla, è ristretta ad una fascia molto limitata. Sì, veramente molto limitata la popolazione, e come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, adesso ogni situazione ha i suoi vantaggi e svantaggi, però per noi in Italia, visto che questa situazione non c'è, dobbiamo fare una grande attenzione al prezzo, e infatti il mio lavoro è lavorare su telefoni che diano comunque un ottimo livello di prestazioni, perché sotto un certo livello di prestazione il cliente italiano non vuole scendere, ma a prezzi più accessibili, penso soprattutto ai giovani. Quindi un lavoro che noi facciamo molto è lavorare su telefoni da 199 e quindi avere proprio una fascia entry level che però mi dia l'accesso alle applicazioni, l'accesso a Facebook, a Messenger, che è il servizio online più utilizzato da parte del cellulare, e via via tutti i servizi che normalmente io oggi voglio. Ci stiamo lavorando, è una strada che per noi abbiamo già fatto l'anno scorso col telefono MTV, che ha avuto molto successo, che costava 1,99, e quest'anno stiamo replicando questo tipo di operazioni. Per avere a bordo del telefono questi servizi che tu citavi, i social network o anche l'email banalmente, bisogna avere la connettività. Questo rimane un problema, perché non tutti gli operatori offrono a prezzi concorrenziali la connettività, o comunque la connettività flat, quindi la always on sul mobile. Voi lavorate per cercare di risolvere questo problema, o questo è un problema degli operatori che non vi riguarda? No, ci riguarda tantissimo e ci lavoriamo tantissimo. Io cito sempre tre regole per avere successo con un telefono in questa fascia. Devi avere un telefono bello e a un prezzo ragionevole per la fascia della clientela. Il telefono deve essere preconfigurato, cioè le persone hanno paura a installare cose sul telefono, lo preferiscono avere già installato. E tre, la tariffa, dove la tariffa non importa solo il valore assoluto, cioè quanto spendo, ma anche la certezza di quanto spendo. Cioè, se spendo 3 euro a settimana, deve essere 3 euro a settimana, e quando finisco i 3 euro fammela ricaricare, ma non avere degli shock da bolletta, dove magari mi arriva a casa una bolletta incredibile, oppure ricarico immediatamente, il mio credito finisce perché avevo dei problemi di accesso ad alcune informazioni. Quindi su quello lavoriamo, gli operatori stanno facendo bene, perché oggi ci sono delle tariffe da 3 euro a settimana che ti danno, diciamo, abbastanza, più o meno tutto quello che ti serve. C'è forse un problema di comunicazione. Io credo che le tariffe debbano necessariamente essere comunicate in una maniera più trasparente e più comprensibile al cliente. Quando noi parliamo, soprattutto con i clienti giovani, che sono anche quelli più informati, il problema della tariffa e l'opacità della tariffa, quindi essere sicuri che tutto è come sembra, è un aspetto molto molto importante. Bene, io ringrazio Fabio Falzea per essere stato con noi. Bocca al lupo per questa nuova versione. Grazie. Del sistema operativo. Quando arriverà la numero 7? Ma ci stiamo lavorando. Il lavoro della 7 non è più tecnologico, ma è più di interfaccia. È un po' come se pensiamo a Messenger o Facebook. Ci sono persone che hanno pochi contatti, e allora quel mondo sociale gli interessa poco, ma gli interessa magari molto di più avere evidenziato il numero della scuola del bambino, perché anche se stai lavorando ti chiamano dalla scuola del bambino, vuoi rispondere immediatamente. Altre persone magari hanno migliaia di contatti e quindi vogliono vedere tutti i loro amici, con sapere se sono online, poterli chiamare, potergli mandare un SMS. Sono mondi diversi sui quali stiamo lavorando per creare interfacce diverse, e sulla 7 lavoriamo proprio in questa direzione. Ci vorrà probabilmente un annetto, poco più di un anno. Bene, quindi magari fine 2010-2011. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie. E così concludiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre a tutti i nostri ascoltatori per la vostra attenzione, anche a quelli che ci ascoltano in podcast sempre di più settimana dopo settimana. Grazie anche a Valeria Coffaro in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, e tutte le informazioni per riascoltarci via internet le trovate su www.radio24.it. Ci risentiamo tra 7 giorni. You are disconnected.